Il 4 febbraio è stata approvata la riforma della Gelmini e immediatamente è salita la protesta degli studenti medi. Occupate diverse scuole nelle città di Bologna e Torino. Sono partiti anche i primi cortei. Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf. Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf. Ma che cosa c'è? Ma che cosa c'è? Balla insieme a me. Balla insieme a me. Adamo Annalo e Anna Damola, bentornati. Qua dopo le vacanze ci troviamo tutti un po' più ingrassati sui fianchi. Sì, e anche di notizie naturalmente. Infatti, come avrete capito, è stata approvata il 4 febbraio la riforma della Gelmini, ed è proprio di questo di cui parleremo nella prima parte della puntata. Infatti, secondo i precari della scuola, questa riforma comporterà determinate cose, come... Sì, tipo la riduzione dell'orario settimanale di lezione. Quindi saranno meno ore di lezione nelle scuole, meno insegnanti, si parla fino a 100.000 insegnanti in meno in 3 anni. Poi ci sarà anche un problema riguardo la sicurezza, in quanto le aule saranno affollate da 30 e più alunni, sia per quanto riguarda l'infanzia sia le superiori. E poi c'è anche prevista una riduzione dei laboratori, per cui ci saranno chiaramente meno tecnici e meno attrezzature per il laboratorio. Sono state tagliate anche le risorse per le supplenze, così ogni scuola si dovrà arrangiare come può, e quindi in generale possiamo dire ci sono meno soldi per tutte le scuole, quindi saranno i genitori e gli insegnanti a dover portare i gessetti e la carta igienica a scuola. Poi ci saranno anche meno risorse per quanto riguarda l'handicap, disturbi specifici di apprendimento e l'accoglienza degli stranieri, e anche meno pari opportunità per quanto riguarda le pari opportunità, nel senso? Sì, ci sarà l'ingresso dei privati negli organi decisionali, che quindi ci sarà una disparità sul territorio nazionale di come verrà gestite le scuole, e quindi l'obbligo scolastico sarà assolto solo con la formazione e la riduzione di sarà assolto insomma con la formazione tradizionale. Poi ci sarà la riduzione di un anno di scuola, che produrrà una disparità tra i minori. Ne avevamo già parlato anche di questo nelle scorse puntate. Comunque, per questo motivo qua, gli studenti medi hanno iniziato la protesta. Abbiamo detto a Bologna. Sì, gli studenti hanno occupato diverse scuole le superiori, come il Sabin, il Copernico, il Pacinotti. A Bologna, anche a Torino, in cui hanno fatto un corteo di 500 studenti insieme anche ai precari della scuola. Infatti, a proposito di questo, sarà indetta un'assemblea provinciale all'Ipsia Cavour di Piscille, prevista per il 12, a cui anche noi parteciperemo chiaramente. Sì, alle ore 8:30. Inoltre abbiamo così introdotto un pochino l'introduzione del fatto che una grave notizia è quella dell'introduzione all'avviamento al lavoro, che consente di assolvere l'ultimo anno di obbligo scolastico, che dal 2006 è il 16° anno di età, e questo per diciamo introdurre i ragazzi nel mondo del lavoro, giusto? Quindi... Sì, questo è un discorso che abbiamo affrontato più volte, perché in effetti la strategia che c'è nella formazione in generale, quindi sia nelle scuole che nelle università, è quello di aumentare i tirocini e gli apprendistati. Questo qui infatti lo abbiamo noi collegato sempre al discorso sul reddito e sul welfare. Una delle strategie che viene attuata a livello europeo è proprio quella di aumentare sia i tirocini gratuiti, lo vediamo all'università, insomma, quando noi tutti siamo obbligati a fare i tirocini che spesso sono assolutamente inutili, sia quando poi ci troviamo al di fuori dell'università, che uno magari vuole iniziare a partecipare a attività, a professioni interessanti come il giornalismo, il cinema, è costretto a iniziare con dei tirocini gratuiti. Allo stesso modo nelle scuole già ci sono dei tirocini gratuiti brevi, tipo di un mese o 15 giorni in certe scuole, sia vengono introdotte queste forme di apprendistato, che invece sono forme di lavoro pagate, che però comunque sono pagate in forma minore rispetto ai contratti nazionali o a chi lavora. E soprattutto spesso questi ragazzi, che ricordiamo sono per i ragazzi di 15 e 16 anni, dei professionali e degli industriali, sono costretti a fare dei lavori che di solito non apprendono nessuna professione qualificante. Quindi vediamo un po' come questo discorso rientri più in una logica di non saper formare le persone. È un modo che lo Stato e anche l'Unione Europea sta cercando di avanzare proprio per superare le difficoltà croniche che ormai ci sono da anni, sia nella scuola sia nelle università. E questo l'abbiamo collegato tante volte, sì, parlando... Sì, non so se ti ricordi la puntata sul reddito. Sì, molto lunga come puntata. No, per precisare, comunque questo era è stato l'emendamento di Cazzola che è stato approvato inizialmente dalla Commissione Lavoro della Camera e invece da pochi giorni dalla Camera stessa, per cui è approvato ufficialmente. Sì, è approvato. Adesso ci sarà da capire il ruolo che avranno questi ragazzi nel, tra virgolette, processo produttivo, perché insomma... Stiamo parlando di tantissimi ragazzi che entreranno nelle imprese. Ovviamente questi ragazzi non saranno considerati come lavoratori ufficiali e quindi non rientrano neanche nelle statistiche, per esempio per calcolare se un'impresa rientra nello statuto dei lavoratori o no. Oppure che forma di sindacalizzazione avranno questi ragazzi. Oppure se si troveranno in un'impresa che sta chiudendo. Cosa faranno loro e che diritti avranno. Insomma, è ancora tutta da vedere questa partita su questi studenti 15 e 16 anni, di cui già si può prevedere un po' la composizione sociale, perché insomma stiamo parlando dei ragazzi che vanno a professionale e a istituti tecnici, che sappiamo soprattutto sono ragazzi maggior numero migranti rispetto al liceo, rispetto all'istituto d'arte o rispetto ad altre scuole. E quindi sarà una composizione sociale molto particolare che si trova in questo processo di integrazione ancora, diciamo, da capire. Perché insomma si torna un po' a quello che era il discorso vecchio dell'avviamento, no? C'è proprio un po' questo ritorno, e questa è stata proprio una cosa che è stata appoggiata dalle stesse parole appunto della Gelmini, no? Che ha detto insomma, siamo ben contenti se i ragazzi cominciano a lavorare sin da subito, non capendo che è una questione un po' differente probabilmente. Sì, perché si ha paura che questi ragazzi non seguano più l'ultimo anno scolastico. Si dice, ah, questi non vanno a scuola, fanno sega, come si dice, scusate la parola. E invece in realtà questi dovrebbero andare a lavorare. Ma chi è che ci dice che vanno veramente a lavorare e invece evitano anche di andare al loro posto di lavoro? Soprattutto vedremo poi se ci saranno casi di incidenti sul lavoro. La tutela e la sicurezza non è poi così chiara in Italia, e soprattutto sappiamo benissimo che il problema tra formazione e mercato del lavoro oggi, in una situazione che viviamo, è in realtà il problema del mercato del lavoro italiano, che non ha dei livelli di produzione innovativi ad alto livello capace di integrare dentro il sistema produttivo della forza lavoro formata ad alto livello. E per questo si dice, ma andate a lavorare che tanto non sappiamo darvi un lavoro ad alto livello. E quindi ecco, insomma, il dibattito tra apprendistato e tirocini è molto interessante anche per noi universitari e per noi fissati con welfare e reddito. Lo riprenderemo sicuramente. Ora. Stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì. Tell me, Ray. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai deluso. tornerà. Allora, era una bella canzone per distrarci un po', perché non c'entrava molto col discorso, comunque era anche per chiudere un po' l'argomento. E invece concentrarci anche un po' su noi, sull'onda, ma che fine abbiamo fatto? Insomma, in mancanza di programma avremmo fatto qualcosa in queste settimane, no? Ma sì, pensavate che stavamo senza fare niente? Soprattutto con l'occasione che ci si è presentata un po' di tempo fa, giusto, sì, vero? L'inaugurazione dell'anno accademico era troppo invitante, insomma, per noi. C'erano tante telecamere, tanti giornalisti e quindi diciamo che siamo andati lì a dire la nostra. Infatti, allora, questo risale al 2 febbraio, quindi con l'inaugurazione dell'accademico. Insomma, c'è stato un po' di movimento, giusto? Visto che anche se non era carnevale, c'erano delle maschere, dei cartelli. Raccontaci un po'. Sì, diciamo, noi ci siamo presentati lì. In effetti non eravamo al massimo delle nostre forze. 8-9 persone un po' così vogliose di farsi vedere. Ci siamo presentati all'inaugurazione con dei cartelli e delle maschere. Anzitutto c'erano diversi cartelli per esporre le nostre idee e per fare anche una protesta silenziosa. Eravamo in pochi, quindi non era il caso di fare troppo casino. Ma i cartelli cosa dicevano? Insomma, cosa... Parlavano dei vari argomenti di cui abbiamo portato avanti in tanti mesi, dalla questione dei dottorati, che ormai a Perugia sappiamo e sono diminuiti da tipo 107 che erano l'anno scorso a 33 quest'anno. E questo abbiamo saputo anche da delle voci, per esempio il preside della Facoltà di Scienze della Formazione ha dichiarato che nei prossimi anni saranno 0 dottorati pubblici. Non sappiamo se è vero, però questa voce è indicativa, insomma, di quello che avverrà. E le maschere invece? Che è la parte un po' più interessante. Le maschere era diciamo, una citazione di Corrado Guzzanti, nel suo Il caso Scafroia, una maschera nera a cappuccio che ci copriva totalmente. Volevamo fare una piccola polemica sul tipo di gestione dell'università. Probabilmente eravamo mascherati da massoni per dire com'è un po' rinchiusa e oscura la gestione dell'università, insomma, nelle sue varie forme. E infatti c'è stata discussione, abbiamo portato avanti insomma una polemica sul fatto che gira voce l'università abbia investito in appartamenti a Manhattan mentre sta tra l'altro chiudendo il polo didattico a Terni e gli altri poli didattici distaccati. Insomma, c'è un po' di nebbia intorno a questi argomenti, non se ne può mai parlare in maniera chiara e diretta, non si sa neanche mai poi come farlo e con chi. E poi, insomma, dice un po' come hanno reagito, no? Avete tirato su questi cartelli tutti mascherati proprio in sede dell'inaugurazione, avranno avuto delle reazioni? Beh, i giornalisti ci hanno fotografato tutti, contenti perché forse era un po' noiosa l'inaugurazione. E mentre uno dell'organizzazione, diciamo dell'organizzazione perché comunque era dell'università, non era un poliziotto o qualcun altro, si è un po' innervosito, ci ha invitato anche un po' fortemente a uscire, infatti ha tolto un cartello e ha dato anche qualche spintone come è uscito sul giornale dell'Umbria. Insomma, la nostra protesta è un po'... In teoria, secondo loro, ha rovinato un po' l'inaugurazione dell'anno accademico, ma in realtà le nostre maschere erano inserite in ben altre maschere. Infatti ce n'erano già abbastanza senza di voi, diciamo, di sì, manati. Sì, c'erano Gogliardi, c'erano Ermellini, professori vestiti con Ermellino, c'era il coro che ha cantato l'inno all'università, che io non conoscevo, che c'era l'inno all'università di Perugia. Dovremmo informarci allora. E senti, quindi hai parlato appunto di giornalisti, di telecamere, che risalto ha dato a questa iniziativa alla stampa? Stranamente molta visibilità, perché di solito a noi non ci dà retta nessuno. E quindi siamo usciti sia sul giornale L'Umbria, Corriere dell'Umbria, che ci ha fatto l'intervista alla fine con foto nostre, sia anche un servizio abbastanza importante sul TGR, sia... sia dell'ora di pranzo sia dell'ora di cena. Solo che il TGR a pranzo aveva detto che eravamo dei precari della ricerca, mentre in realtà eravamo sia studenti che precari della ricerca, più dell'Onda Perugia che non è stata menzionata, però questo non è importante. Importante era un po' il messaggio che è stato recepito, per esempio sulla questione della trasparenza dei verbali, della trasparenza dei documenti. Che figurate, noi avevamo già parlato in diverse puntate della nostra ricerca di dei bilanci, di vedere un po', insomma, di cercare appunto una trasparenza nei verbali, che però ancora non ci sono stati mai consegnati, per cui questa era una cosa abbastanza importante che riprenderemo comunque. Sì, infatti abbiamo fatto una richiesta direttamente al dirigente amministrativo e ci ha risposto che noi dobbiamo chiederli ai nostri rappresentanti nel Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Abbiamo fatto richiesta ai nostri rappresentanti e loro per adesso ha risposto in realtà uno solo. Ha detto che si muoverà, insomma, per trovarci questi documenti e aspettiamo. Siamo in attesa. Siamo curiosi di vedere il bilancio d'Ateneo, visto che sono un anno e mezzo che diciamo. Certo, anche altro argomento per quanto riguarda la trasparenza. Sì, è un anno e mezzo che il rettore sta dicendo qui rischiamo di chiudere, di essere commissariati, non c'è più l'autonomia finanziaria, tra l'altro. Ribadito anche l'inaugurazione all'anno accademico, ha detto qui rischiamo di non avere più un'autonomia finanziaria, che è il principio stabilito nel 1990 dalla riforma Ruperti, un rischio veramente grande, e questo è stato riportato un po' in tutti i giornali locali come Il Messaggero eccetera. E per quanto riguarda noi come movimento, insomma, studentesco di precari, siamo finiti sul sito Uniriot, il sito a livello nazionale. Infatti, oltre a questo, alcuni di noi sono stati proprio a Roma a parlare con degli studenti ricercatori che gestiscono questo sito, Uniriot, e di questo weekend romano parleremo tra poco, dopo uno stacchetto che riprende Roma. Sì, per noi questo sito è abbastanza importante perché è proprio un progetto di autoformazione, insomma, c'è un progetto dietro e comunque ne vogliamo parlare tutti insieme tra studentato occupato e precari della ricerca. Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Dimmi cos'è che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla. Grazie Roma. Questa probabilmente è la peggior selezione musicale di tutte le puntate di Ari Donna. Infatti abbiamo scelto Venditti proprio per... C'è una ricerca sotto, sembra che a caso, invece noi proprio cerchiamo le canzoni peggiori da mettere. Però insomma questo ci introduce al discorso che facevamo prima sul weekend che alcuni ragazzi dell'Onda hanno passato nella sede Uniriot, no? E tu, Adamo Loanna, sei stato uno di questi, per cui raccontaci un po' come è andata. Sì, era una discussione, diciamo, di un'area politica particolare di studenti e precari di ricerca, di cui alcuni di noi, insomma, partecipa da un po' di anni, tra cui io. Quindi siamo andati un po' per discutere delle tematiche importanti, ci riguarda tutti, del tipo come è andato quest'autunno nell'università e come protesta, e poi che cosa fare in questa primavera, visto, insomma, che stava andando avanti la riforma universitaria sia in Italia con la Gelmini, di cui parliamo continuamente, eccetera, sia però anche a livello europeo, perché ormai la riforma del 3+2 è una cosa europea, non più solo italiana. Certo, si è discusso quindi dei problemi, hai detto, riguardo quest'autunno. Problemi in che senso? Spiegaci meglio. Beh, nel senso che nel 2008 abbiamo vissuto tutti questa esperienza grande di una protesta di massa, possiamo definirla tranquillamente di massa, dei studenti sia delle università che delle superiori, e che poi è stata chiamata con nome collettivo Onda, che noi, insomma, ci è piaciuto un sacco e ci siamo sentiti parte di questo movimento. Che poi quest'autunno 2009 tutti, almeno noi, eravamo tutti pronti per una nuova esplosione di protesta, perché quest'anno vediamo veramente gli effetti della riforma contro cui noi siamo in mobilitazione. E purtroppo è proprio questo il momento dove avremo più bisogno di appunto mobilitarci, no? Esatto, paradossale, perché rispetto alla grande esplosione dell'anno scorso, mannaggia il microfono. Lo so, quest'anno non si sono viste tutto quel gran numero di studenti in piazza, e per questo abbiamo detto: cosa è successo? È successo che evidentemente le persone che hanno partecipato alla protesta non hanno sentito come principale la questione dell'università, e poi che non hanno condiviso le nostre modalità organizzative della protesta e il nostro linguaggio, insomma è anche un mea culpa di noi come, tra virgolette, militanti della protesta universitaria, che ci siamo un po' staccati da quella che è un po' la massa, che in realtà per esempio si è ritrovata il 5 dicembre a Nobi Day, cosa che noi... Cioè, tra virgolette, non ci è piaciuta le modalità di impostazione. Però come in realtà... Onda sempre, insomma, diciamo, quando parliamo di noi, parliamo noi come Onda, perché poi ognuno... Sì, dopo ognuno come individuo partecipa a tutto ciò che vuole. Però non ci sembrava una cosa che ci riguardava. Però in realtà è stata l'unico momento di manifestazione di massa che ha portato in piazza centinaia e migliaia di persone, mentre noi siamo riusciti solo a fare lo sciopero l'11 dicembre, una giornata seppur importante, un po' ridimensionata rispetto a numeri e la aspettative. Partecipazione. E senti, scusa la apparente curiosità, ma dove avete dormito? Abbiamo dormito al Point Break, che è lo studentato occupato dai studenti di Roma. Infatti è stata un'esperienza molto bella, perché eravamo curiosi, si conoscono le case occupate, insomma il movimento per le case è tutto, ma non conoscevamo gli studentati occupati. E quindi com'era? Come vi hanno accolto, insomma? Beh, l'accoglienza è stata ottima, ovviamente. Qui parliamo di 16 studenti della Sapienza di Roma che hanno deciso di occupare una palazzina su 3 piani. Una palazzina che è da ben 16 anni che è in disuso, che non è abitata da nessuno ed era lasciata al degrado. Loro da 7 mesi vivono lì dentro e la stanno ricostruendo anche con notevole sforzo. Infatti ci hanno raccontato come all'inizio era molto difficile, tra l'altro neanche tutti si conoscevano all'inizio, è stato quindi anche proprio un processo nuovo di amicizie, di relazioni. Bello, di incontro. E insomma, tra l'altro c'è da dire che loro hanno attuato una tattica, tra virgolette, politica che è da valutare bene anche per il futuro, uno se vuole occupare queste cose, insomma. Visto che si trattava di casa occupata, di una casa di proprietà di privati, hanno deciso più che altro di fare intavolare appena entrati una trattativa nell'immediato, per vedersi riconoscere a livello anche legale questa loro situazione di studenti in cerca di casa. Quindi hanno intavolato una trattativa in cui hanno coinvolto non solo i proprietari, hanno cercato di coinvolgere l'università e il comune. Questo è un modo per farsi, uno, riconoscere politicamente loro che non hanno fatto un'azione, tra virgolette, illegale. Certo, quindi proprio anche per una questione di serietà e di... è abbastanza, quindi... Sì, molto ragionata. Molto ragionata, ecco, e apprezziamo quindi anche questo lavoro che... Sì, perché poi si sono anche inseriti nei vari movimenti per la casa di Roma, no? Ci sono tutte le assemblee tipo Action, oppure altre situazioni di occupazione di palazzi pubblici di solito. E loro stanno all'interno di questi movimenti su cui cercano sponda legale. Infatti fanno anche, per esempio, sportello di tutela legale per gli studenti che hanno problemi nelle case. Quanti hanno problemi con il contratto di casa, il contratto di affitto? E quindi sembra una buona soluzione anche per noi, no? Certo, quindi anche immagino un incontro importante è stato. Allora, per concludere noi ricordiamo che dall'11 al 14 marzo a Vienna ci sono le celebrazioni dei 10 anni del processo di Bologna. Sì, infatti anche questo se ne è parlato molto. Perché cos'è successo? Che l'11 e il 14 marzo a Vienna tutti i ministri dell'istruzione e molti rettori di tutta Europa si incontrano per discutere e celebrare i 10 anni del processo di Bologna. E questo processo di Bologna è proprio, diciamo, la cornice in cui si inserisce tutte le trasformazioni dell'università, della scuola, di cui quello stiamo continuamente parlando e contro cui lottiamo continuamente. E quindi abbiamo discusso perché non andarci e perché soprattutto non cercare di trasformare la nostra protesta in una protesta che sia europea. Infatti sembrerebbe che a queste giornate, tra virgolette, di controvertice, no? Come si vedono, che ne so, contro il G8 oppure contro gli incontri sul clima, come è successo a Copenaghen, non partecipiamo noi come studenti e precari della ricerca italiani insieme infatti a studenti tedeschi, studenti austriaci, poi si sa che verranno studenti dalla Serbia, dalla Turchia, proprio... Bello, quindi proprio una bella, una forte partecipazione. E poi inoltre il 24 febbraio a Torino, questa è una cosa abbastanza importante, è previsto un presidio del, diciamo, per ricordare gli studenti che sono stati arrestati a luglio, gli studenti dell'Onda, che ora subiscono il processo. Sì, questa storia è collegata alla protesta contro il G8 dell'università a Torino. A Torino nel... a maggio, quando insomma gli studenti scesero in piazza e insomma ci furono degli scontri con la polizia e furono arrestati diversi studenti. Per questo motivo c'è questo processo e noi vogliamo ribadire il nostro sostegno a questi studenti e questi precari che hanno protestato, secondo noi, legittimamente, e condividiamo anche le forme di protesta, e per questo proviamo a partecipare in delegazione oppure faremo qualche atto di solidarietà con i nostri studenti. E niente, allora ricordo un'ultima volta il 12 che è previsto un'assemblea all'Ipsia Cavour al quale anche noi parteciperemo. Sì, insieme ai precari a scuola. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ma guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego. Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola. Sono Anna Adada. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna Adada. Sono single, lavoro. Ho già passato le periodi di... Le nostre voci hanno già suonato e urlato e le piante. Rischio anche di vedermi rubare dal segnamento. E ho finito il concorso per italiano e storia negli istituti tecnici. Le nostre voci dentro questo palazzo. Non voglio presenze da sempre. Non ho una casa. Sono Anna Adada. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Ho 43 anni. Le nostre voci hanno già suonato e urlato nelle piazze e siamo stufe di non contare più. Siamo stufe di subire i giochi della politica. La politica adesso la facciamo noi, portando le nostre voci dentro questo palazzo, dentro tutti i palazzi. Sono Anna Adada, ho cominciato a lavorare una ricerca in fisica, sono Anna Adada, mi sono laureata in 110 parole, il mio professore voleva fare...